9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon lunedì 31 maggio, buon inizio di settimana. Aspetteremo ancora un'oretta e mezza prima di sentire le parole del governatore Mario Draghi nelle sue considerazioni annuali all'Assemblea dei partecipanti della Banca d'Italia, ma intanto oggi una riflessione in questa puntata su una proposta che ad alcuni di voi potrà sembrare paradossale, ma da parte di chi vi parla, Oscar Giannino, e da parte di alcuni altri, sia pur minoritari, economisti italiani e anche nel mondo, alla luce dei dati comparati, una proposta che invece secondo noi farebbe molto bene al nostro paese. Oggi di che cosa si tratta? Proprio nel momento in cui la politica, le categorie sociali, il sindacato si divide protesta per l'entità e l'individuazione dei soggetti sui quali saranno caricati i tagli del deficit tendenziale italiano per la manovra di 1,6 punti di PIL nel prossimo biennio varata, anche questa mattina trovate sui giornali una ricca messe di particolari a questo proposito. Oggi è la lista dei 232 enti culturali che il governo ha proposto di definanziare, con un principio che a me sembra giusto, perché si tratta di prendere atto del fatto che le burocrazie culturali non hanno capito da anni che bisogna mettere un limite alla spesa tendenziale, continuano ad accumulare deficit, e quindi il Tesoro propone per questi 232 enti di introdurre il principio per cui si finanzierà solo fino a un terzo dei trasferimenti ordinari fino all'anno scorso, non più la loro attività ordinaria, bensì puntuali e precisi progetti, ma nei limiti di un terzo. Capisco che la proposta sollevi molte critiche da prestigiose istituzioni culturali italiane, la Triennale a Milano, Museo della Scienza e della Tecnologia, a Spoleto la fondazione che organizza il Festival dei Due Mondi e così via, però il principio è che da 10-15 anni a questa parte le burocrazie culturali non hanno mai capito che bisognava mettere un freno alla spesa tendenziale, e lo dimostra per esempio il caso delle 14 fondazioni lirico-sinfoniche nel 98 aperte ai privati per diminuire il deficit. Risultato: dopo 10 anni metà di loro, 7 su 14, continuano a accumulare debito e deficit, e ci sono state polemiche ancora mesi fa. Di fronte a questo io sono anche per i tagli severi e lineari, perché la mia opinione è che bisogna ridurre il perimetro della spesa pubblica. Su a questo proposito, prima di arrivare alla proposta di oggi, lasciate che io vi ricordo due dati, perché chi protesta per la spesa pubblica tende, dicendo che è intoccabile, tende a dimenticare i suoi andamenti nel tempo. Allora, la spesa pubblica primaria italiana, quella al netto degli interessi, vi do le serie storiche degli ultimi decenni. Negli anni 60 è aumentata di 4-6 punti, passando dal 27,5% del PIL italiano al 32,1% nel 70. Negli anni 70 è aumentata di altri 4,8 punti, cioè è passata dal 32,1% del PIL nel 70 al 36,9% nel 1980. Dopodiché negli anni 80 è aumentata di altri 7,2 punti, cioè è salita dal 36,9% del PIL italiano, in cui sta nell'80, al 44% nel 1990. Poi cosa è successo? Nel decennio tra 1990 e il 2000 è scesa di 4,1 punti di PIL, cioè dal 44% del PIL dove stava nel 90 è scesa al 39,9%. Sono stati gli anni del risanamento obbligato, per così dire, per entrare nell'euro, ricordate, così via. Dopodiché negli anni 2000, tra il 2000 e il 2009, la spesa primaria pubblica corrente è risalita di altri 8 punti di PIL, cioè è salita dal 39,9% del PIL dove stava nel 2000 al 47,9% del 2009. Questi 8 punti di PIL sono fatti per, in buona sostanza, per 3 punti circa di aumenti dei consumi intermedi della pubblica amministrazione, e questo secondo me giustifica, perché bisogna mettere mano all'organizzazione della spesa pubblica tagliando, perché altrimenti, se ci si appella alla capacità autonoma della pubblica amministrazione di farlo, la dimostrazione è che il più degli aumenti continua a venire di là. C'è stato solo un aumento di un punto percentuale in più di PIL per le retribuzioni del pubblico impiego. Questa spesa, questo giustifica anche perché gli interventi della manovra, secondo me, su questo. E poi ci sono stati 2,8 punti di PIL in più in prestazioni sociali in denaro, cioè in pensioni. Di fronte a questo e di fronte quindi ai tagli di spesa, il sottoscritto e altri dicono: il tempo della riforma fiscale è oggi, non è domani, più avanti, quando i tagli di spesa metteranno ancora più al sicuro i saldi pubblici, come è il ragionamento corrente e prevalente. Al contrario, se ci si dimentica che, oltre a mettere in sicurezza i saldi pubblici, i mercati guardano anche alla componente della crescita, cioè al denominatore su cui insiste il numeratore, la spesa pubblica. E siccome noi siamo un paese che crescevamo meno degli altri, molto meno degli altri, già prima della crisi, rischiamo di correre, di crescere ancora meno degli altri per via dei tagli di spesa e dell'output potenziale, cioè della crescita potenziale inferiore a quella degli altri, della riforma fiscale ne abbiamo bisogno adesso, di una riforma fiscale decisa che liberi molta pressione fiscale su lavoro e impresa, i due pilastri fondamentali per fare più sviluppo. E alla domanda: ma cosa avverrebbe con questa riforma che creerebbe nella transizione fatta così, abbattendo il prelievo marginale, cioè le aliquote più elevate, abbassando il più possibile verso un'aliquota di convergenza? Noi diciamo il 23%, come si diceva nella delega del 2001 fiscale, quella di cui si dice sempre è impossibile attuarla oggi. Cosa avverrebbe? Non sarebbe deficit in più? Non sareste in contrasto con la linea del rigore se proponete proprio oggi una riforma fiscale che sembra, per convenzione generale, invece essere rimandata ai tempi in cui la finanza pubblica sarà più sicura? Ecco, di questo parliamo oggi per spiegarvi meglio questa proposta è per capire perché la politica italiana ne diffida, perché la politica italiana continua a dire a voi che siete in ascolto, e vi prego di intervenire all'800240024, che dovete aspettare ancora altri anni, domani, prima di vedere una riforma fiscale come quella che era promessa nella delega approvata dal Parlamento nel 2001 e poi non attuata in quella legislatura. Per parlare di questa proposta abbiamo deciso oggi di invitare un economista che ha appena scritto insieme a una collega un paper proprio su questo tema, per illustrare effetti comparati di una riforma di questo tipo e per spiegare in cosa consisterebbe, quali elementi sprigionerebbe nell'economia italiana. E il professor Aldo Rustichini, che insegna economia all'Università del Minnesota ed è coautore, insieme con la professoressa Rapallini, che insegna a Firenze, di questo paper che si intitola Debito pubblico, crescita e riforma fiscale, idee per ripartire. Buongiorno, professor Rustichini. Buongiorno a lei, buongiorno. Ecco, e poi abbiamo due esponenti della politica italiana. Da una parte Nicola Rossi, lo conoscete benissimo, senatore del Partito Democratico. Buongiorno, senatore. Buongiorno. E Benedetto Della Vedova, deputato del PDL. Buongiorno, buongiorno, onorevole Della Vedova. Allora, professor Rustichini, ci spiega un pochino meglio l'idea centrale di questo paper che avete illustrato giovedì pomeriggio scorso in un convegno a Roma? Sì, guardi, noi partiamo da un problema, facciamo una diagnosi di questo problema e proponiamo dei rimedi. Questo è quello che diciamo. Il problema è che l'Italia è dal 2000 è ferma. Abbiamo una crescita del prodotto interno lordo pro capite che è 0,3 di un punto percentuale. Nello stesso periodo l'Inghilterra, che è un paese come simile al nostro, ha avuto una crescita del 2%. Crescevamo negli ultimi 40 anni al 2,5% circa. Quindi siamo lo stesso paese che eravamo, abbastanza simile a quello che eravamo qualche anno fa, quindi ci deve essere qualcosa di sbagliato che spiega questo rallentamento così drastico. E questa è anche la ragione di tutti gli altri problemi, è la ragione per cui io credo che non si possa aspettare per la riforma fiscale quando i tempi migliori arriveranno, perché è possibile che se questo trend continua i tempi migliori non arrivino mai. Quindi dobbiamo cercare di capire perché abbiamo questo problema. La nostra diagnosi è, intanto guardiamo al debito pubblico, che è salito da meno del 60% all'inizio degli anni 80 al 120% del prodotto interno lordo negli ultimi 10 anni, stiamo oscillando intorno a quella quantità. Quindi questa è possibile che sia la causa di questo problema. La causa però secondo noi non è direttamente il debito, ma il fatto che il debito ci costringe a una pressione fiscale che sta salendo. Quindi siamo saliti dal 32% al 42% nello stesso periodo. Quindi il debito ci forza una pressione fiscale che sta strozzando la crescita e stiamo entrando in un circolo vizioso. I tempi buoni possono non arrivare mai se non facciamo qualcosa, cerchiamo di affrontare questo problema. E quindi questa era la diagnosi, i nostri rimedi sono: facciamo la riforma fiscale ora, con riduzione sostanziale delle imposte sui redditi, sia sulle persone fisiche che sulle società. Noi in particolare proponiamo la riduzione di una frazione del 15% di tutte le aliquote, cioè prendiamo le aliquote come sono, gli scaglioni come sono ora, e riduciamo tutto di una frazione del 15%, quindi si tratta in media di una riduzione fra 3 e 6 punti percentuali delle aliquote, una riduzione dell'imposta sui redditi della società, l'IRES, dal 27,5% attuale al 22%, e una riduzione delle spese che compensi questa riduzione del gettito. Poi qui entriamo nella discussione di quale sarà la riduzione del gettito, perché forse non dovremmo essere così pessimisti come il calcolo immediato della moltiplicare la variazione delle aliquote per la base imponibile ci direbbe. Perché le riforme fiscali di questo tipo hanno un effetto dinamico, cioè nel tempo poi fanno aumentare il PIL. Sì, questa è la cosa importante da capire. Comunque noi facciamo siccome sono tempi duri, bisogna essere molto prudenti, bisogna essere allo stesso tempo, diciamo, coraggiosi e prudenti. Quindi l'impatto statico, quello che noi chiamiamo statico, cioè la variazione immediata delle aliquote per la base imponibile, è il caso peggiore. Poi, come tutte le cose, meno si tassano, più se ne producono, quindi la base imponibile, quando si riduce l'aliquota, aumenta, quindi l'effetto negativo sul gettito è sempre minore di quello che si fa, che si calcola quando si fa un calcolo immediato. Quindi, professore, io per rendere più chiaro a chi ci sta ascoltando, la vostra linea, che condivido, non è quella che non bisogna assumere provvedimenti per diminuire il deficit tendenziale, cioè tagliare la spesa, ma che in buona sostanza una buona parte di questa diminuzione di spesa va prevista a copertura nel breve termine del minor gettito che si può ipotizzare da una riforma fiscale di questo tipo, e questo per tranquillizzare i mercati, ma nell'assunzione che i mercati, di fronte a una riforma fiscale così congegnata i cui effetti sarebbero così coperti anche da tagli di spesa, avrebbero più fiducia nella sostenibilità di lungo periodo del debito pubblico, perché il deficit rimarrebbe sotto controllo, ma soprattutto l'economia crescerebbe di più. È corretto? Sì, esattamente. Sono d'accordo. Lei ha detto a un certo punto nel breve termine, bisogna che questa cosa sia nel lungo termine. Cioè è necessario che i mercati guardino alla riduzione delle aliquote e le considerino come una riduzione che si può mantenere, e quindi esatto, anche gli operatori in Italia considerano che si possa mantenere. Una riduzione temporanea non serve a nulla. Esatto, perché la letteratura comparata e i casi concreti di riforma ci insegnano che altrimenti le famiglie e le imprese, se pensano che gli sgravi fiscali non siano sostenibili, cioè permanenti nel tempo, non modificano i loro comportamenti di consumo, di investimento, di maggiore offerta di lavoro in maniera strutturale, ma rimangono esattamente come prima, dicendo: tanto non ci frega, queste diminuzioni di aliquota poi le riaumenterete nel tempo. Quindi è molto importante che questa riforma appaia permanente nel tempo. Un'altra domanda le faccio prima di chiedere ai nostri interlocutori politici, poi torniamo con lei. Molti dei nostri ascoltatori, immediatamente, ma è abituale, lo fanno nei miei confronti, professore, non si preoccupi, non ce l'hanno con lei, dicono: miserabile Giannino, vuoi diminuire le aliquote perché come sempre sei al servizio degli evasori fiscali. Spiega un secondo, con la sua autorevolezza, per favore, che la diminuzione delle aliquote marginali, cioè di quelle più alte, non ha come effetto quello di modificare la componente in maniera sostanziale, la componente del peso fiscale tra i diversi decili di reddito, cioè tutte le volte che si abbassano le aliquote più elevate, è dimostrato che in realtà, lo fate anche nel paper, i più ricchi non per questo contribuiscono meno al gettito, anzi, lo può però dire lei, perché se lo dico io non mi credono. La riduzione delle aliquote marginali, se un effetto ce l'ha, non ce l'avrà grande, ma sull'evasione, ma ce l'avrà, che l'evasione si riduce, perché il vantaggio di fare tutti gli sforzi e i rischi che si corrono per evadere diminuisce. Se, immagini, se l'aliquota viene ridotta a percentuali molto piccole, il tentativo di evadere non ci sarà più. Cioè, noi siamo in Italia in una situazione un po' paradossale, per cui il legislatore sta facendo delle aliquote che sono così alte scontando il fatto che ci sarà l'evasione. Quindi ridurre le aliquote semmai permette di ridurre l'evasione. Io vorrei dire, sono anche molto favorevole ai provvedimenti di cui si sta parlando per ridurre l'evasione. Per carità. Però bisogna rendersi conto che una lotta all'evasione, se fatta con successo, significa un aumento della pressione fiscale. Quindi bisogna stare attenti agli effetti sulla crescita, sullo sviluppo, gli effetti macroeconomici della lotta. Che non è esattamente quello di cui abbiamo bisogno. Comunque, per tranquillizzare coloro che sono in ascolto, io ricordo che il quintile, cioè il 20% di tra i 40 milioni di posizioni fiscali italiane di chi ha il reddito più elevato, già oggi paga l'80% circa del totale del gettito. Quindi chi ha l'idea che siamo un paese totalmente sperequato, dove i più ricchi, secondo ciò che c'è nell'anagrafe tributaria, assai poco attendibile, me ne rendo conto, non pagano, però dimentica che i dati che abbiamo sotto il naso sono questi. Allora, due domande flash adesso ai nostri interlocutori politici, con i quali riprendiamo però dopo la pubblicità. Adesso solo 30 secondi a testa per poi far approfondire a ciascuno dopo la pubblicità se la proposta di una riforma fiscale così congegnata li convince oppure no, e se sarebbero disposti a sostenerla. Cominciamo con Benedetto Della Vedova. Ma direi, se devo dare una risposta sintetica, sì, si può discutere, ma credo che questa sia la linea. Del resto, in campagna elettorale, tanto Berlusconi quanto Walter Veltroni dissero due cose convergenti. Berlusconi l'aveva sempre detto a sinistra la prima volta che lo si ascoltava. Il modo più efficace per ridurre l'evasione fiscale è partire da una diminuzione delle aliquote. Io credo che il mondo non sia cambiato così tanto in due anni, nonostante tutte le turbulenze a cui assistiamo, e se non vogliamo che anche gli sforzi che stiamo facendo vengano completamente divorati dall'assenza di crescita, quella della riforma fiscale con una diminuzione sensibile delle aliquote mi sembra una via saggia. Senatore Rossi, lei che dice? Dico che le cose che ho sentito dire da Rustichini sono, come dire, la logica economica è quella, quindi non credo che ci sia molto da discutere, o almeno io non ci trovo molto da discutere. Il problema è come si fa una cosa di questo genere. Allora, la mia sensazione, diciamo, è che abbiamo un'occasione abbastanza grossa a portata di mano, nel senso che parte della manovra, per esempio, una parte consistente, credo circa un quarto, sia ottenuta attraverso il recupero di gettito dell'evasione. Ecco, se noi cominciassimo con il mettere da parte quelle risorse, non so come si fa in sostanza per coprire spesa, ma al contrario, li mettessimo da parte a fronte della riforma fiscale da farsi. Non pretendo che venga definita in tutti i suoi minimi dettagli ad oggi, ma quello che invece si può chiedere al governo e si dovrebbe chiedere a tutta la classe politica è di dare il segnale che stiamo mettendo da parte ciò che serve per farla, perché non è necessariamente vero che debba essere fatta oggi perché tutti gli individui se l'aspettino. Basterebbe cominciare col dire quelle risorse, quanti sono? 6 miliardi, bene, ci sono 6 miliardi oggi che vanno a copertura della riforma fiscale da farsi entro la legislatura. E voi tenete conto, italiani, che entro 3 anni ve la facciamo, però tenete conto che vi arriva, questo è quello che lei dice. Tenete conto che c'è già, e io non lo farei nemmeno decidere al governo, sia il ragioniere generale dello Stato a dirci ogni anno qual è stato il recupero dell'evasione. Lo attesti lui, guardi, questo serve anche per un altro motivo, perché la finiamo così di discutere tutto l'anno sul se il recupero dell'evasione è stato tanto o poco, e cominceremo anche a stabilire quanto costa recuperare l'evasione. Bravo, bravo, bravo senatore Rossi, un'attestazione autonoma rispetto alla politica del recupero. Io sono favorevole per ridare anche certezza alle cifre di cui la politica altrimenti nega l'una all'altra parte anche solo la dimensione quantitativa. Io vi ricordo in ascolto, prima di lanciare la pubblicità, che siamo passati, dichiarazione ufficiale dei governi pro tempore in carica, dai 6.4 miliardi recuperati nel 2007 ai 9 e oltre, dice la Guardia di Finanza, concretamente recuperati nel 2009. L'obiettivo annunciato che correda la manovra binaria del governo è di arrivare alla bellezza di 21 miliardi entro il fine 2011, passando da 9 a 21 miliardi. Se così fosse, come vedete, le cifre di cui parla il senatore Rossi da mettere a copertura della riforma fiscale sarebbero parecchie ingenti. Eccoci tornati in studio, non solo tagli al deficit tendenziale, ma riforma fiscale subito per far ripartire il paese e far quindi salire il denominatore, quello del prodotto su cui si calcola la pressione fiscale. Questo è il tema di cui parliamo oggi. Due rapide telefonate e poi torniamo ai nostri ospiti. Cominciamo con Dario da Modena. Come la pensa Dario? Allora, io non vorrei deludere il professor Pichini, ma facendo parte di quel numero di persone che hanno un reddito classificato come medio-alto, diciamo 75.000 euro l'anno, se io mi trovassi qualche migliaio di euro in più in tasca, non penserei a spenderli, ma piuttosto ad accumularli e così, se dovessi dire una battuta, ad accumularli per moltiplicare le mie opportunità di andarmene dall'Italia. Il problema è che in questo momento, secondo me, le nostre istituzioni e in particolare il nostro attuale governo non ha alcuna credibilità da questo punto di vista. Quindi, a fronte di, diciamo, restituzione di risorse, io temo che sarebbero ben pochi quelli che investirebbero di più, spenderebbero di più in Italia. Credo che gran parte dell'istinto sarebbe quello di portare via, mettere in cascina un po' di fieno per i tempi peggiori che, secondo me, in gran parte ci aspettiamo. E aggiungo a conclusione che diciamo il problema della credibilità diciamo della cosiddetta società civile che ci dovrebbe garantire un certo tipo di ripresa negli ultimi anni è forse il più grave e il più negativo dei segnali che abbiamo ricevuto un po' tutti, e quando non c'è credibilità i soldi non si spendono, questa è la grazie mia. Grazie a Dario, molto pessimista, la via dell'estero, insomma, ecco, sperando magari poi più avanti in un altro scudo. Del resto, i provvedimenti di amnistia fiscale in Italia sono ripetuti proprio per questo. Giacomo dalla provincia di Milano, sentiamo la sua opinione. Buongiorno, io sono un biologo, quindi forse non dovrei avventurarmi, poi so che il problema è sempre un altro, la realtà è sempre più complessa, però in Italia ci sono forse 15-20 milioni di persone che vivono di assistenzialismo. Ci sono larghi territori del paese che non hanno da 150 anni saputo costruire un tessuto civile, sociale, economico, sostenibile e funzionale. C'è il nord che fino adesso è stato la locomotiva del paese, che è stato buttato fuori dai mercati per aver dovuto pagare il pizzo all'Italia per decine d'anni e anche forse un po' per la propria obsolescenza tecnologica. In queste condizioni io onestamente fatico a vedere come si possa uscire dalla situazione, come si possa tagliare le tasse. Fatico a vederlo anche perché vedo che ben pochi fanno la diagnosi corretta delle ragioni precise per le quali siamo finiti in questo disastro. Che secondo lei dipendono, il più della spesa pubblica dipende dal mancato successo nell'aver colmato i gap tra nord e sud. Ricordo il contributo delle regioni sud nel 2009 al PIL italiano, 24.8% del PIL nel 2009, esattamente come nel 1951, quindi 60 anni che non hanno spostato una virgola. Questo le dà ragione. Senatore Rossi, come vede, le nostre reazioni dei primi ascoltatori rimangono scettiche sul tema del contributo di un processo di liberazione di energia per far crescere l'Italia dato dall'abbattimento delle aliquote marginali. È sbagliato pensare che in questo in realtà la convinzione trasversale degli elettorati, sia a sinistra che a destra, prevalente sia quella che una riforma così concepita sarebbe avventurista, chi per una ragione, chi per l'altra. Insomma, gli italiani secondo lei sono scettici perché hanno delle buone ragioni o perché forse non hanno mai visto chi li ha stupiti, perché hanno visto solo la spesa crescere e il prelievo crescere di conserve? Onestamente è molto difficile non essere scettici, perché quando addirittura un provvedimento che considero assolutamente banale come l'eliminazione di quelle 9 piccole province viene ritirato nel giro di poche ore per essere destinato ad un improbabile altro provvedimento da esaminarsi, e quando da parte dell'opposizione questo stesso argomento non viene, come dire, considerato come un punto dirimente anche sulla qualità della manovra, beh, allora diciamo scettici è naturale esserlo. perché se addirittura su queste piccole cose l'intera classe politica si ferma, vuol dire che la volontà politica veramente scarseggia, vuol dire che la rete di interessi che la spesa pubblica ha saputo creare nel tempo è vastissima e purtroppo ancora solidissima. E quindi capisco benissimo lo scetticismo di tanti. Detto questo, però, il problema a me sembra un altro. Si può pure essere scettici, ma bisogna fronteggiare la realtà. Non sarà questa classe politica, forse sarà un'altra, ma qualcuno a un certo punto il tema della crescita di questo paese credo che se lo dovrà porre. Sì. Onorevole Della Vedova, inevitabile chiedere a lei come parlamentare del centrodestra, sia pure sempre distintosi nell'isolamento, vorrei dire, per aver coerentemente battuto questa posizione, ma perché in definitiva negli anni i parlamentari del centrodestra quella delega del 2001 l'hanno lasciata lì dove era, sempre considerando una specie di legge manifesto e mai un programma concreto, prima per il 2001, poi per un'altra ragione, oggi per la grande crisi, ma senza mai credere che la liberazione di energie per far crescere il paese potesse passare sul serio da quella che era comunque una legge delega votata in Parlamento da loro? Lei che impressione ha? Ma io dico purtroppo dal 2001, e io in quell'epoca non militavo ancora nel centrodestra, ad oggi sembra essersi persa la fiducia e la convinzione che per fare il bene o quantomeno il meglio per questo paese si debba passare, allora si diceva ancora rivoluzione liberale, oggi chiamiamola come vogliamo, ma si debba passare da una stagione di riduzione del ruolo e del perimetro dello Stato, parole della scorsa settimana del Presidente Berlusconi peraltro, con convinzione e che restituendo libertà di manovra alla società, al mercato, alle imprese, ai lavoratori, operazione che si può fare, restituire libertà di manovra al mercato, alle imprese, ai lavoratori, se si riduce il perimetro e il peso dello Stato, che questo sia un gioco a somma positiva. Io continuo a pensare che sia così, continuo a pensare che se non riusciamo a scindere il destino del Paese dal destino della crescita della spesa pubblica, non combiniamo nulla di buono. Ci sono altri paesi, lo sappiamo, che hanno livelli di tassazione e spesa pubblica comparabile al nostro, in cui però l'output, il prodotto di tutta questa spesa pubblica è migliore, e noi dobbiamo fare i conti col fatto che non il 50% di ricchezza della nazione intermediata dallo Stato non produce efficienza, anzi spesso produce inefficienza. E quindi bisognerebbe che anche dentro il centrodestra ci si riconvinca un po' di più che la chance che noi abbiamo per in questi 3 anni trasformare davvero in modo visibile, non rivoluzionario, ma trasformare in modo visibile questo paese, lo si può fare se si affronta questo punto: meno spesa pubblica, meno tasse, anche al sud. Ne abbiamo discusso spesso con Nicola Rossi, quindi non è nemmeno una questione partigiana questa. Anche al sud, io credo che l'inizio di un tentativo di rivoluzione con qualche chance di riuscire sia: basta sussidi comunque destinati, che servono solo a creare il mercato dei sussidi, dei contributi, sì a una riduzione, anzi a un azzeramento delle imposte sul reddito d'impresa per 5-10 anni per quelli che vanno a investire, ma perfino per quelli che ci sono, perché dobbiamo dare il vantaggio a chi il valore lo crea. Oggi vendiamo vantaggi e se ne appropriano anche quelli, cioè i sussidi e i contributi, anche quelli che poi non sono destinati a creare valore. Quindi è cambiato il mondo, c'è stata la crisi, la finanza internazionale, la globalizzazione. Io credo che dobbiamo ripartire dai fondamentali, e i fondamentali, come lei diceva, a mio avviso restano quelli del 2001: più mercato, più concorrenza, meno tasse. Professor Rossichini, molti dei nostri ascoltatori ripetono ciò che preoccupa maggiormente loro, e cioè che un'aliquote più basse, una riforma di questo tipo, porterebbe a meno servizi. Io ricordo a tutti coloro che se ne ascolto che su 53 punti di PIL, che è la spesa pubblica a fine 2009, il 25% più o meno, in termini sempre di punti di PIL, sono welfare, servizi e assistenza, 16 punti di PIL sono pensioni, 11 punti di PIL sono retribuzioni pubbliche. Abbiate sempre in mente questo quando i politici vi dicono che devono tagliare i servizi non appena c'è un euro in meno di spesa pubblica, perché contano balle rispetto alle voci componenti della spesa pubblica. Però, alla luce di questo, io chiedo al professor Rostichini, possiamo un secondo parlare di esempi concreti di paesi che hanno fatto riforme decise sulle aliquote marginali e che contemporaneamente sono riusciti a diminuire la pressione fiscale ma anche la spesa pubblica? Sto parlando di paesi avanzati, lo ha fatto la Germania, lo ha fatto l'Irlanda, non è detto tutti seguendo lo stesso canone, ma non per questo abbattendo lo Stato sociale ma crescendo di più. Eccoci, quindi professore, che ci dice? Esistono esempi concreti di paesi che fanno queste riforme senza per questo ridursi alla macelleria sociale? Come dice il ministro Tremonti spesso, ai vecchietti che in America sono costretti a mangiare il Kit Kat nelle strade. Io non li ho mai visti, ma comunque lui lo dice sempre. Ma tre paesi vengono in mente subito. Uno l'ha menzionato lei, l'Irlanda. Io ne volevo menzionare uno che non so se è molto nelle cronache, ma negli ultimi 10 anni il Cile per me è un esempio importante, soprattutto se si confronta con l'Argentina. Il Cile degli ultimi 10 anni è il Cile democratico. Il Cile non è più un paese del terzo mondo, è diventato un paese sviluppato, è stato promosso quest'anno con manovre che non sono affatto attestate di macelleria sociale, ma soprattutto di privatizzazione del sistema pensionistico. Quindi è un Cile, ripeto, democratico, non c'è niente Pinochet. Pinochet è stato un episodio tragico nella storia del Cile, ma quello che è successo negli ultimi 10 anni, soprattutto, ripeto, se si confronta con l'Argentina, che sta attraversando, è entrata in una spirale che è veramente preoccupante. È un esempio importante per gli Stati Uniti. Io, una manovra simile fu fatta in un periodo di crisi, alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, da Reagan. Io voglio portare questo esempio senza fare miti. Reagan propose un taglio delle aliquote che era di un quarto, quindi fu una manovra spaventosa. Il candidato e poi presidente Bush lo definì questa manovra voodoo economics, una manovra di magia nera. Però la riduzione del gettito fu solo del 2%, quindi molto meno di quanto si era previsto, e la crescita salì da 2,5% a 3,4%, e non ci fu nessuna macelleria sociale. Certo, ci fu una riduzione degli sprechi, ma noi non possiamo pensare di non fare questa cosa in Italia. Se al sud il numero di occupati nel settore pubblico per diviso per la popolazione è il doppio di quello al nord, questo è un indice chiaro che non stiamo spendendo bene in modo produttivo le risorse che abbiamo. Quindi ridurre questi sprechi, in particolare in alcune regioni d'Italia, non è affatto macelleria sociale, anzi, io secondo me, una volta fatte con l'ottimismo necessario, anche per le persone che ora sono in una condizione di, stata definita da Giacomo, assistenzialismo, è uno stimolo, è una spinta positiva, non è macelleria sociale. Io sono molto ottimista sull'Italia, non mi dispiace sentire queste telefonate pessimiste, perché abbiamo le risorse e questo è un modo per liberarle, non per ridurre i vecchietti a mangiare Kit Kat. Sono completamente d'accordo con il professor Rostichini, che insegna alla University of Minnesota. Ecco, vorrei che coloro che come lui condividono queste impostazioni fatte di solide basi comparate e non di chiacchiere politiche, a differenza di quello che alcuni di voi possono pensare, insegnassero anche di più in Italia. E questo è un vecchio discorso che abbiamo fatto più volte sul fatto che chi la pensa in un certo modo poi ha trovato più facilmente soddisfazioni e successo all'estero che in questo paese. Alcuni ascoltatori ancora, iniziamo con Carmelo da Milano. Come la pensa Carmelo? Ma io sono totalmente d'accordo con la vostra idea, la vostra proposta, non tanto perché ne avrei chiaramente un beneficio personale, ma perché sono proprio convinto che innanzitutto una riduzione delle aliquote comporterebbe una maggior propensione all'acquisto. Io lavoro in una multinazionale del settore dell'auto è uno dei motivi per cui si comprano meno auto adesso, proprio perché la gente ritiene di avere meno potere d'acquisto. Quindi ridare più potere d'acquisto sicuramente ci aiuta a recuperare un po' di crescita. Sulle risorse da recuperare, io sono molto a favore di un recupero di efficienza mediante un sistema di controllo di gestione anche nella pubblica amministrazione, perché il fatto che esistano situazioni di disequilibrio in cui al sud ci sono più impiegati che al nord deriva proprio dal fatto perché forse le amministrazioni pubbliche non ragionino in termini di budget, di limiti alla spesa e di controllo. Grazie Carmelo, vedremo tra poco nel decreto sulla definizione dei costi standard nell'ambito dei 17 decreti di attuazione della legge delega sul federalismo se questi criteri più omogenei e standard verranno introdotti. Faccio presente che sui giornali di oggi trovate tracce del fatto che per la parte sanitaria l'80% della spesa regionale, ricordo a tutti che il Fondo Sanitario Nazionale quest'anno è 125 miliardi di euro per rimanere ai numeri, gli effetti del costo standard a cui la Commissione presieduta da Luca Antonini sta mettendo mano sarebbero solo di 2,5 miliardi di riequilibrio per le regioni, diciamo, più lontane dalla media di costo standard. A mio giudizio questa cifra indica che si sta parlando di un finto costo standard. Richiamo alle cifre fatte dal libro di Luca Ricolfi, di cui abbiamo spesso parlato negli ultimi 3 mesi, in cui c'è l'individuazione di un gap da colmare sul costo standard sanitario pari a circa 6 volte quella cifra di 5 miliardi che invece sta emergendo dalla Commissione. Quindi attenzione, perché su questa cosa dei costi standard passa la possibilità o la mancata possibilità di fare del federalismo, soprattutto in sanità, a cominciare dalla sanità l'80% della spesa regionale, una cosa seria oppure no. Sentiamo ancora qualche ascoltatore. Massimo da Lugano, lei come la pensa, Massimo? Buongiorno. Io penso semplicemente che quello che lei sta sostenendo è quanto di più saggio si potrebbe fare in questo momento. Le faccio un esempio: in Svizzera, nel momento in cui si ha una riduzione delle imposte, automaticamente i comuni, i cantoni e la federazione ha un aumento delle entrate. Questo perché una riduzione corretta delle imposte all'interno di un sistema di corretto rapporto tra fisco e cittadino genera un aumento di gettito. Questo non lo dico io, lo dicono i numeri, lo dice la storia di chi l'ha adottato questo sistema. Il problema è che in Italia non abbiamo soltanto un'imposizione fiscale elevatissima, ma non abbiamo una coscienza comune, una coscienza sociale, sia dalla parte dello Stato e dalla parte dei cittadini. È ovvio che il cittadino, nel momento in cui si rende conto che gli stessi soggetti che lo rappresentano sono i primi a non rispettare le regole che scrivono, è portato inevitabilmente a non rispettare gli stessi le regole, perché le ritiene più quasi dei suggerimenti che delle imposizioni. E dall'altra parte il rapporto non è corretto. Una cosa che mi sembra sia stata poco messa in evidenza, ad esempio, è la circostanza che in questa manovra si prevede il pagamento immediato delle cartelle esattoriali. Ora, voi sapete che molto spesso le cartelle esattoriali, nel momento in cui vengono impugnate in commissione, vengono annullate. Nel momento in cui invece si impone al cittadino, comunque sia, di pagare e poi si vedrà, già il rapporto è squilibrato. E la violazione di un diritto elementare del contribuente di fronte allo Stato è una violazione dello statuto del contribuente, eccetera, eccetera. Sono d'accordo su questo esempio. Non sono d'accordo molto sull'argomento, diciamo così, del familismo amorale, quel dannato libro degli anni 50 di Benfield, che continua a identificare negli italiani una specie di tara atavica nell'impossibilità di aderire spontaneamente a meccanismi di coesione sociale e civile. Io credo che l'evasione e l'illusione più elevata in Italia rispetto ad altri paesi avanzati, non così tanto più elevata quanto la pubblicistica italiana tende ad alimentare, dipende dal fatto invece che noi abbiamo avuto un aumento di 18 punti di PIL di pressione fiscale in 18 anni, e questo è uno shock in tempi molto stretti che secondo me nella grande media dei paesi OCSE ha invece si è determinato in 80-100 anni di aumento più graduale della pressione fiscale. A tutti coloro che sono in ascolto e ci chiedono dove poter scaricare liberamente il paper del professor Rustichini e della professoressa Rappallini, Berlini, indico il sito di www.noisefromamerica.org oppure il blog che io dirigo, www.chicago-blog.it. trovate lì dei pezzi in cui c'è il rimando automatico dove poter scaricare questo paper. Ringrazio i nostri ospiti, il professor Rustichini, il senatore Rossi e l'onorevole Della Vedova. Purtroppo molti ascoltatori che hanno chiamato e che non abbiamo potuto mandare in onda. Ora, tra poco, le parole del governatore con le sue considerazioni finali. Con noi l'appuntamento è a domani, la linea al giornale radio.